Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Alberto Osculati, passione di famiglia per la nautica, di Riccardo Porcun. Dalla cantina degli inventori ai mercati del mondo, quella della famiglia Osculati per la nautica è una passione che dura da oltre 50 anni. Dal nonno Emilio, che nel 1958 fondò l'impresa, alla moderna azienda specializzata nella vendita di accessori, ancore salvagenti, sartiame e oltre 18.000 referenze, per un catalogo di prodotti famoso in tutto il mondo. La storia della famiglia Osculati comincia in una piccola cantina nel centro di Milano, con il capostipite Emilio Osculati, che lascia la motonautica dopo aver vinto 9 campionati italiani e uno europeo. Così ricorda le origini Alberto Osculati, nipote di Emilio, che guida l'azienda di famiglia con il fratello dalla metà degli anni 90. Mio nonno allora era conosciuto come il corridore del fil de fer, in quanto aveva una capacità di adattamento. Con un filo di ferro sapeva aggiustare un motore, sistemare una cosa di qua, alla sua barca o a quella degli amici. Fin dalle competizioni lui lavorava in cantina, sotto casa, aveva una villetta a Milano, e in questa cantina, che era chiamata la cantina degli inventori, sono usciti da motori e tantissime altre cose. E mio padre, che ovviamente abitava al piano di sopra, spesso veniva coinvolto da mio nonno a scendere giù in cantina, a tagliare una mano, a stare vicino a lui. La scusa era che, essendo un bambino, aveva le mani piccoline, poteva intervenire sui motori nei componenti più piccoli. Uno sviluppo graduale nel cuore di Milano, con decine di dipendenti e molte donne specializzate nell'assemblaggio. Nei primi anni 60 il piccolo negozio degli appassionati comincia a crescere, poco alla volta. Il negozietto era veramente di pochi metri quadri e poi l'hanno espanso di cantina in cantina, una cosa molto da Italia degli anni 60, che cresce raspando dal muro, con le unghie dal muro. Hanno cominciato a comprare le cantine del palazzo dove c'era questo negozio. E poi la prima officina dove lo Osculati, a parte la cantina del nonno, dove ha cominciato a costruire i suoi accessori, era in via Marghera, oggi è una via alla mota. Allora lui aveva comprato una per una tutte le cantine del palazzo, tutti i piani terra del palazzo, e hanno cominciato a costruire in serie i primi accessori. Oggi è incredibile immaginare via Marghera un'officina con una serie di persone, la maggior parte donne impiegate che facevano assemblaggio. La passione non si ferma. Passa dal nonno Emilio al padre Mario, pronto a dare una mano in negozio giorno dopo giorno, all'uscita da scuola. In appena 4 anni l'attività comincia ad ampliarsi. Uno sviluppo che coincide con quello dell'Italia del boom economico. I primi timoni in alluminio, lo studio e l'adattamento di progetti d'oltreoceano, nuove attrezzature di coperta, venduti agli stessi ex avversari del nonno nelle gare di motonautica. Nel 62, in questa famosa cantina degli inventori, mio padre e mio nonno hanno cominciato a costruire i primi volanti da alluminio e i primi accessori che loro facevano per i loro clienti. Magari studiamo dei prodotti che venivano dalla lontana America per fare qualcosa di diverso, di simile, di migliore, e da proporre agli ex competitor di mio nonno. Mio padre, pur per la contrarietà di mio nonno, che era indeciso per un investimento così importante, ha scelto di aprire la stessa attività in dimensioni maggiori, puntando sul magazzino, una cosa su cui non avevano puntato molto allora, prendere e fare in casa un magazzino importante. Questo aveva richiesto un investimento, uno sforzo da parte di mio padre e un po' di timori da parte di mio nonno. La Osculati S.p.A. continua nella sua crescita grazie alla decisione di investire nel magazzino, sempre fornito. Dalla piccola dimensione della cantina degli inventori diventa un'azienda strutturata. Oggi il suo fatturato è di 46 milioni di euro, principalmente frutto delle vendite in Italia, circa il 53%, ma aperto ai paesi esteri, con un 38% nell'area europea, soprattutto Francia e Germania, e altri ottimi risultati nell'est europeo, in Russia e in Medio Oriente. Negli anni 90 la tradizione prosegue, con l'ingresso in azienda della nuova generazione. Dopo la seconda generazione è arrivata la terza, o generazione 2.5, come io uso chiamarla, in quanto la prima e la seconda generazione, mio nonno Emilio e mio padre Mario, in realtà hanno cominciato a lavorare quasi in contemporanea. Quindi quando siamo arrivati io e mio fratello, anche un po' per scaramanzia, io non dico la terza, dico la seconda 2.5. noi siamo arrivati alla fine degli anni 90. All'inizio c'è stato un periodo di apprendimento e di adattamento, anche perché il padre è una persona costruita da sé, quindi una persona molto convinta di sé. Abbiamo cominciato a portare il nostro contributo all'inizio degli anni 2000, dividendoci i ruoli, ma ruoli in maniera che fossero complementari. Quindi mio fratello da un lato si è messo a costruire un nuovo rapporto con i grandi cantieri. Allora stanno cominciando a nascere i primi cantieri globali, cantieri che presto avrebbero anche raggiunto e superato 1 miliardo di euro di fatturato, un genere di clientela a cui l'Osculati non era ancora abituata. Dall'altro ha costruito un rapporto di fiducia, di partnership con alcuni dei più importanti marchi stranieri come Umar, come Way, dei quali siamo tuttora, a distanza di oltre 10 anni, i distributori italiani di riferimento. Io accanto mio ho supportato questo suo lavoro con una riorganizzazione interna, con l'istituzione di un sistema di ERP, quindi di gestione aziendale, che potesse supportare queste nuove sfide, e di organizzazione culturale interna, di valorizzazione delle risorse interne, che non è stato facilissimo, ma ha dato grande soddisfazione, perché una persona da 20 anni abituata a lavorare in una certa maniera, portarle su una cultura non più di negozio ma aziendale, è stata una sfida interessante. Obiettivi che portano la Osculati a raggiungere nuovi clienti anche in India e Australia, senza dimenticare le radici. La sede principale resta a Milano, a Segrate, con una filiale a Lucca. Per svilupparsi e affrontare nuove sfide, la Osculati ha investito sin da subito in un rapporto costante con la tecnologia e le forme più moderne di comunicazione. Un modo per raggiungere in tempo reale gli appassionati, sempre più attenti alle innovazioni. Le app consentono di accedere direttamente al catalogo dei prodotti per la nautica, diventato con gli anni un punto di riferimento per tanti clienti e diportisti. Investimenti in nuove tecnologie, sito sempre aggiornato e app per consultare il catalogo in 8 lingue con migliaia di prodotti. Il nostro catalogo, che adesso è disponibile in 8 lingue, fino anche il polacco, l'ultimo ingresso, è in realtà noi lo chiamiamo un database, è un enorme database di accessori nautici. Tutto quanto è strutturato in XML e siamo in grado di dare queste informazioni a chi vuole lavorare con noi come fonte di informazione per la nautica, una specie di enciclopedia di quello che è disponibile sulla nautica. E tutto questo non è solo un cartaceo, ma è un'informazione disponibile che noi possiamo condividere con i nostri partner. Noi abbiamo un'app, abbiamo distribuito un'app per alleggerire chi va in giro, invece di portarsi in giro la Bibbia, come la chiamano, il nostro catalogo di 900 e passa pagine, c'è un'app che rende la cosa molto più leggera, basta portarsi in giro un tablet e si riesce a sfogliarlo in qualsiasi posto tu sia. Con 100 dipendenti diretti, 23 agenti e una rete di distributori e terzisti specializzati in piccole lavorazioni, l'azienda è riuscita a resistere alla crisi, anche con un'apertura sempre maggiore al mercato estero e con l'esternazionalizzazione di alcuni prodotti fuori dall'Italia, senza dimenticare uno dei punti di forza, la rete di terzisti e di singole aziende collegati all'Osculati. Sono quasi 80 i paesi con cui lavoriamo, dal Sud America al Sud Africa all'India fino anche alla Cina. Quindi in Cina produciamo una parte del materiale di produzione pesante che in Italia oggigiorno non è più possibile fare, mentre tanta alta produzione la facciamo tuttora in Italia con una rete di terzisti incredibile. L'Osculati è la testa di una produzione con una sua officina, ma si appoggia a un network in Lombardia, Liguria, Nord Italia in genere, ma anche Sud Italia, che è incredibile, sono un po' parte della sua forza l'aver costruito proprio una rete neurale di intelligenze di collaborazione a sviluppare prodotti. Da una parte quindi lavoro in Italia, da un'altra parte su cose dove in Italia fusioni di acciaio non è più il paese dove farle, lavoriamo invece all'estero, ma su stampi di nostra proprietà, con disegni di nostra proprietà, abbiamo dei giovani designer ed ingegneri che lavorano in sede, che disegnano o sul nostro sviluppo oppure in collaborazione con i clienti per fare i prodotti migliori. Misure che hanno consentito alla Osculati di resistere anche alle difficoltà degli ultimi anni. La crisi noi l'abbiamo sentita, non è stata traumatica. Per dire, noi prima della grande crisi come gruppo arrivavamo a 52 milioni, in questo momento siamo a 46, quasi 47. quindi abbiamo supportato molto bene. La nostra società ha mantenuto il magazzino, ha continuato a costruire sul magazzino e non ha assolutamente cambiato il rapporto tra quanto abbiamo in stock e quanto siamo in grado di distribuire. Devo ammettere, c'è stato un momento in cui ci hanno offerto cifre molto considerevoli per cedere l'azienda e nostro padre, che a quel punto aveva una certa età, mi ricordo intorno a un tavolo rotondo, ha guardato me e mio fratello davanti ai potenziali investitori e ha detto: ragazzi, cosa volete fare? E noi, tra l'ipotesi di ritirarci, andare in un paese caldo e vivere il resto della nostra vita di rendita e l'idea di portare avanti un'azienda che aveva il nostro cognome, non c'è stata scelta, la scelta era ovvia. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.